Bom dia, essa é a rádio de poucas palavras. Thank you. lavo i denti ai francobolli. Dicevo grazie a Dio, buon Natale, mi sentivo normale. Eppure i miei 30 anni erano pochi più dei loro, ma non importa, adesso torno al lavoro. Cantavano il disordine dei sogni, gli ingrati del benessere francese, e non davano l'idea di denunciare uomini al balcone di un solo maggio di un unico paese. E io la faccia usata dal buon senso, ripeto, non vogliamoci del male, e non mi sento normale, e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro, e adesso è tardi, adesso torno al lavoro. Rischiavano la strada e per un uomo ci vuole pure un senso a sopportare di poter sanguinare, e il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si prova a liberare la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente. Mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura mi fido poco. Ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso. E l'esplosivo spacca, taglia, fruga tra gli ospiti di un ballo mascherato. Io mi sono invitato a rilevare l'impronta dietro ogni maschera che salta, e a non aver pietà per la mia prima volta. Yo me quedé eclipsado con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotea, como revolotea, como la tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pican los picos de mi morena. Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale si no fuera por ella. Cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo la tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica los picos de mi morena. De los caminos y nos matan los bichos.